a merda che cammina. Lotta transfemminista dalla sera alla mattina. Che tremi, che tremi, che tremi ogni fascista. Atti, Corogna è tutta femminista. Ciao a tutte e tutti, siamo di nuovo in onda con la marea transfemminista e siamo con un po' di compagno qui per fare un approfondimento su un primo maggio transnazionale femminista e su un'assemblea che ci sarà domani alle 15.30 organizzata appunto da noi a Una di Meno Bologna. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Sì, siamo tutti insieme qua sia in diretta che poi è una diretta da Zoom e sempre su Zoom e virtuale sarà anche l'assemblea pubblica di domani, però insomma siamo qua tutti insieme, continuiamo a lottare insieme e ad andare avanti nonostante la pandemia e appunto siamo qui per il primo maggio, un'assemblea che abbiamo chiamato anche come Assemblea Cittadina di Bologna, ma che è una chiamata che parte a livello transnazionale. Sì, parliamo un attimo infatti di come si è costruito questo spazio transnazionale che poi è una cornice appunto di questo primo maggio che è stata questa prima chiamata organizzata insieme. Questo spazio è nato a fine febbraio dopo che le compagne della coordinadora 8M cilena hanno fatto una chiamata globale a varie collettive, reti e movimenti per scrivere un testo di lancio per rilanciare lo sciopero globale femminista e transfemminista. Questo spazio transfronterizzo ha lanciato questo appello per lo sciopero che noi come Una di Meno abbiamo firmato e in seguito diciamo a questo primo coordinamento per la scrittura di questo testo è stata diciamo la volontà da parte di un po' tutte e tutto di continuare questo scambio e questa iniziativa femminista transnazionale rispetto a quello che succede sia in generale nelle varie situazioni dei vari paesi sia anche poi soprattutto in questo momento di crisi, perché appunto come sappiamo l'8M in molti paesi, soprattutto noi qua in Italia ma anche in altri paesi, la pandemia era già iniziate e quindi le iniziative sono un po' mutate come anche i discorsi politici. L'idea è di creare questa rete che sia un po' uno spazio di confronto costante fra diverse pratiche, movimenti, reti e insomma come si muove la lotta transfemminista e femminista globale nelle varie situazioni. È uno spazio molto ampio composto da una grande pluralità di discorsi e esperienze e stiamo articolando questa iniziativa in modo processuale, approfondendo e dando rilevanza a dei punti che ci uniscono in modo propositivo e di condivisione. Ed è in questo modo che abbiamo lavorato anche per scrivere il manifesto femminista transnazionale e per realizzare i video e le grafiche. Lo spazio del primo maggio è stato pensato all'interno di questa rete perché crediamo che questo processo e il processo dello sciopero, che è estremamente importante per il femminismo e il transfemminismo a livello globale, non si sia interrotto in questa pandemia, ma che continua a vivere nelle varie resistenze individuali e collettive messe in atto da donne e soggettività dissidenti, persone LGBTQ e quindi tutto insieme continuiamo a organizzarci, a lottare anche in questa pandemia. Vogliamo fare un ruidazzo globale per trasmettere questa potenza e questa energia del movimento femminista e transfemminista globale anche in questo momento, ma soprattutto per dare anche visibilità e rafforzare le lotte e le resistenze in atto. Come noi in Italia e anche in tutto il resto del mondo, insomma, lo sciopero è stato risignificato ampiamente in questi 4 anni e quindi di conseguenza, a maggior ragione in questo momento, molti dei nostri discorsi sono visibilizzati. C'è un evento globale che racchiude diciamo tutti questi eventi nei vari paesi. Per quanto riguarda diciamo la nostra specificità a Bologna, appunto ci sarà questa assemblea e alle 18 ci sarà il ruidazzo. Quindi appendete un pannello alla finestra, postate le foto del vostro ruidazzo nell'evento, mobilitatevi come potete, seguite la nostra assemblea online e insomma e continuiamo a lottare tutti i giorni anche in questo momento difficile. Adesso ci saranno delle altre compagne che ci parleranno della campagna che abbiamo lanciato Cittadina, ma prima ci ascoltiamo un pezzo. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. E rieccoci in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Abbiamo appena ascoltato il bellissimo pezzo Ni Una Menos di Chocolate Remix. E per chi si fosse connesso adesso, siamo Non Una di Meno Bologna e invaderemo le frequenze della radio fino alle ore 17.30. E oggi vogliamo parlare del primo maggio. E vista l'impossibilità di scendere in piazza quest'anno a causa della crisi pandemica, abbiamo sentito l'esigenza di organizzare comunque uno spazio di condivisione e di confronto per costruire quelle che sono le nostre pratiche di resistenza, e per questo domani, primo maggio, alle ore 15.30, sulla nostra pagina Facebook in collegamento Zoom faremo un'assemblea virtuale in cui chiunque potrà prendere parola e raccontarci come sta vivendo questa situazione assurda e emergenziale. Sì, esatto. E appunto, quindi ci potremo vedere domani. Ovviamente siete tutte e tutto invitati a collegarvi. Dovete semplicemente seguire la nostra pagina Facebook o i nostri canali, su cui condivideremo il link per connettersi su Zoom e condivideremo anche la diretta. Quindi per chi non riuscisse a connettersi su Zoom sarà possibile anche fare domande via Facebook e seguire da lì l'assemblea pubblica, che appunto inizierà alle 15.30 e si concluderà alle 18 con il ruidazzo di cui parlava prima Atena, che fondamentalmente consiste appunto nel fare rumori transfemministi e renderci in qualche modo visibili anche in questo momento, nel caso italiano, dove è impossibile in questo momento scendere in piazza. L'invito sarà quello a partecipare in qualche modo dai propri balconi e dalle proprie finestre, e appunto anche a taggarci e ricondividere i video di queste azioni, così da connetterci anche oltre l'assemblea pubblica di domani. Appunto, stavamo parlando dell'assemblea di domani e della nostra necessità di fare un'analisi di quello che sta succedendo oggi, ma anche di confrontarci e di immaginare nuove pratiche di resistenza. Ovviamente queste sono cose che abbiamo già iniziato a fare, e il primo maggio si inserisce in questo processo. Una delle campagne che abbiamo lanciato recentemente, per chi non l'avesse già vista, è appunto una campagna che è sia un'autoinchiesta che una campagna social, e che è nata proprio dalla nostra necessità, che è emersa già nelle prime assemblee in cui ci siamo riviste, di partire da noi, cioè, diciamo che un po' questo mito del virus democratico si è capito subito che fosse un mito e che in qualche modo impattasse diversamente su tutte le nostre vite, quindi abbiamo deciso di invitare tutte e tutto a partecipare a questa campagna di autoinchiesta che è ancora attiva e che potete trovare di nuovo sui nostri canali social, appunto per capire quali fossero le conseguenze reali della pandemia sulle nostre vite, conseguenze che sappiamo avere anche una connotazione di genere, ne parleremo anche più avanti, e colpire appunto diversamente tutte e tutti noi. E da questa autoinchiesta poi è nata anche una campagna social, proprio perché questo, diciamo, desiderio di partire da noi nell'analisi corrisponde anche il desiderio di una presa di parola collettiva che possa dare forza a tutte noi. E quindi è partita questa campagna social che è già iniziata da qualche giorno verso il 1° maggio, ma che continuerà anche più avanti, in cui stiamo ricondividendo alcune delle risposte. E ovviamente le risposte che stiamo condividendo sono risposte date da persone che hanno dato esplicito consenso ad essere ricondivise, quindi tutte le risposte che condividiamo sono anonime, ma potete anche scegliere di partecipare senza essere ricondivise. Sì, a pochi giorni dall'inizio di questa famigerata fase 2, cerchiamo di costruire insieme un'analisi, una risposta a quella che è invece una mancata presa di parola da parte del governo, che sembra dimenticarsi le vere esigenze di quelle che sono i nostri bisogni. Ci viene chiesto di restare a casa, ma non si tiene conto del fatto che magari qualcuno a casa invece subisce violenza, che la casa rappresenta un simbolo di oppressione. E quindi io resto a casa, ma diventa un problema se a casa vengo picchiata, diventa un problema se a casa il mio lavoro ammonta a 24 ore non stop e ho un figlio da gestire e in contemporanea devo lavorare e ho lo smart working. E quindi tutte queste problematiche cerchiamo di affrontarle in questa assemblea, che ricordiamo è domani 1° maggio alle ore 15:30, in cui tu possiamo connetterci e capire come affrontare questa cosa. Sì, allora appunto vi abbiamo rinnovato ancora una volta l'invito a partecipare all'assemblea di domani, ma noi insomma abbiamo già parlato anche un po' abbastanza, e in realtà ovviamente uno dei temi fondamentali dell'assemblea di domani per il 1° maggio sarà quello del lavoro e del lavoro salariato. A questo punto passerei un po' anche la palla alle altre compagne che non sono ancora intervenute, tra cui per esempio Joelle. Sì, ciao Joelle! Ciao, sì, appunto, parliamo anche un po' di lavoro, visto che domani è il 1° maggio, quindi direi che è un argomento che, insomma, del quale discutere anche oggi, anche perché il lavoro chiaramente è in questo momento, cioè stiamo per entrare nella fase 2, quindi di lavoro si parla un sacco in questo momento, e noi, come Non Una di Meno, come movimento transnazionale transfemminista, quando parliamo di lavoro parliamo sia del lavoro salariato, che appunto adesso dovrebbe ripartire un po' ignorando insomma i rischi che questo comporta, e però parliamo anche di lavoro riproduttivo, lavoro di cura, e infatti appunto quello, diciamo, che vogliamo far emergere in modo molto forte è tutto il lavoro che in questo momento si sta svolgendo nelle nostre case, visto che nelle case siamo chiuse, un lavoro che chiaramente, vista la società eteropatriarcale in cui viviamo, per, diciamo così, per semplificare, è chiaramente un lavoro che principalmente è sulle spalle delle donne, ed è un lavoro che in questo momento appunto verrà appesantito ancora di più. Immaginiamo tutte le persone che dovranno tornare a lavorare magari avendo figli e in assenza praticamente di soluzioni, dovendosi far carico appunto del gestire anche questo aspetto. Chiaramente possiamo bene immaginarci quello che succederà nella maggior parte parte dei casi succederà che saranno le mamme, che saranno le donne probabilmente a dover rinunciare al rientro al lavoro pesando sulle proprie ferie o rischiando di perdere il posto di lavoro. In ogni caso, anche nelle situazioni in cui il lavoro si è tradotto in lavoro da casa, in smart work, la situazione ovviamente è che il lavoro di cura e il lavoro in casa comunque si va ad accavallare e quindi diventa ancora più difficile, ancora più pesante in situazioni come, per esempio, ce lo ricordava prima Adele, in situazioni in cui spesso la casa è anche luogo di violenza. Quindi tutti questi aspetti si presentano insieme e vanno a pesare l'uno sull'altro. In ogni caso, anche nel momento in cui magari si dovesse iniziare a parlare di ammortizzatori, come più volte è stato annunciato, senza che in realtà questo venisse mai attuato davvero, ci chiediamo anche in che modo questi ammortizzatori verranno distribuiti e a chi. Sappiamo bene qual è il tipo di società che si immagina, chi queste cose le decide e come la famiglia appunto eteropatriarcale sia il fondamento della società che loro vedono, e quindi sappiamo bene anche che appunto la presenza di ammortizzatori poi andrà soltanto ad alcuni soggetti, senza realmente comprendere tantissimi soggetti che in realtà ne hanno veramente bisogno in questo momento. E adesso direi che ci ascoltiamo un pezzo. Rientriamo dopo questo pezzo potentissimo, Rebel Girl delle Bikini Kill, un pezzo che ha fatto la storia delle lotte riot musicali e oltre. Ci siamo lasciate ponendo un accento sulla questione della famiglia e le retoriche familiste che un po' danno forma alle iniziative del governo, ma non solo, anche un po' al tipo di cultura mainstream che in questo momento pandemico si sta mostrando in modo ancora più evidente. Siamo stati inondati da appelli proprio sull'unità della famiglia e sull'unità nazionale, come se appunto le due cose fossero i nuclei fondanti del nostro stare in comunità, ma noi sia come donne ma anche come persone queer, come froce, come lelle, come trans, come persone intersex, come persone razzializzate, come sex worker, siamo da sempre ai margini, siamo state messe ai margini, siamo state confinate anche prima, ed è in questo momento di pandemia che questa condizione in qualche modo diventa ancora più visibile e ancora più pesante. Si parlava prima di quanto appunto sia ancora sia peggiorata la condizione delle donne, delle madri che si ritrovano con il carico di lavoro e di responsabilità enorme durante questo lockdown e che se lo ritroveranno anche nella cosiddetta fase 2, nel momento in cui dovranno forse ritornare al lavoro. Sappiamo che il loro lavoro è sacrificabile, da sempre, ogni volta che c'è stata un'emergenza, quando è stato il momento di tornare alla cosiddetta normalità, chi ha pagato di più il prezzo dell'emergenza sono sempre state le donne, ma come queer e come soggettività altre, da questi margini in qualche modo siamo in grado anche di dare visibilità a altre forme di autogoverno, altre forme di mutualismo, altri modi di stare insieme e di darsi una mano, che non sono necessariamente appunto quelli che vengono proposti dai governi, ma che invece partono da delle reti e dalla consapevolezza che l'orizzontalità del modo in cui si mettono in atto delle pratiche di mutuo aiuto e delle, che sono anche delle pratiche politiche, sia la caratteristica fondamentale. Sappiamo che per fare fronte a questi momenti di emergenza non possiamo certo contare sulle decisioni di comitati di soli uomini eterosessuali e cisgender, ma piuttosto sappiamo che dobbiamo rimboccarci le maniche e connetterci, agire mutualismo e solidarietà con lo scambio di risorse, di cibo, di denaro, ma non solo, perché anche rispetto alla questione dei bisogni primari è importante ricordare che per tante soggettività sono bisogni primari anche altre cose: l'accesso a una socialità frocia, un accesso a una possibilità di incontro dei corpi fuori dagli spazi domestici, dove spesso appunto le soggettività LGBT QIA vengono mortificate, soprattutto quando si parla di domesticità dentro alla famiglia tradizionale, alla famiglia d'origine, quando i rapporti con la famiglia d'origine raramente sono ancora in piedi. A proposito di questo, è importante nominare una campagna di crowdfunding che è stata che è sostenuta ed appoggiata da Non Una di Meno, ed è la campagna Nessuna da Sola, promossa dal collettivo Ombre Rosse e dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute. Una campagna importantissima perché proprio le sex worker ci stanno dimostrando come sia possibile auto-organizzarsi e allo stesso tempo stanno in qualche modo riuscendo a rendere visibile qual è la condizione di un lavoro criminalizzato, che quindi non permette l'accesso alle risorse pubbliche, poiché il sex work è considerato ancora un crimine fondamentalmente. Ovviamente le risorse, la redistribuzione che vengono messe in campo da parte dei governi o delle autorità locali non sono accessibili. È importantissimo, e quindi vi invito a seguire Ombre Rosse su Facebook, su Instagram, sui canali, e a donare per la campagna Nessuna da Sola. Ci sono altre campagne fondamentali a cui Non Una di Meno sta cercando di dare il massimo della visibilità, e in particolare magari Alice ci racconta una di queste. Grazie Vabs. A proposito di campagne, vi parlerò brevemente della, della campagna lanciata dalla Rete Italiana Pro Choice, Rete Italiana per la Contraccezione e l'Aborto, che appunto ha lanciato questa campagna per cui si richiede alla SIGO, la Società Italiana Ginecologia Ostetricia, di emanare urgentemente raccomandazioni e di adattamenti della 194 in tempi di coronavirus. Come sappiamo, quindi, l'aborto in Italia purtroppo è da sempre anche una battaglia politica che si consuma però sui corpi delle donne e delle persone, delle soggettività che necessitano di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. E in questi tempi, appunto, di estrema problematicità, la Rete Pro Choice chiede appunto che siano seguite le raccomandazioni, le linee guida di società scientifiche di molti paesi europei che suggeriscono la possibilità di abortire anche da casa col teleaborto, e questo si ritiene che sia una grande una possibilità molto importante per mantenere comunque la sicurezza delle donne e delle soggettività che si ritrovano ad abortire in tempi di Covid. Infatti sappiamo bene che in questo momento gli ospedali, oltre a essere saturi proprio a livello di carico di lavoro, sono anche potenziali luoghi dove maggiormente si può trasmettere il virus. Quindi si chiede appunto che si possa abortire in sicurezza da casa e ridurre le visite a una sola all'ambulatorio ospedaliero di riferimento o al consultorio, quindi restare dentro proprio il territorio e quindi poi dopo accedere al teleaborto con la somministrazione della RU, essendo ovviamente sempre in contatto con medici, mediche e ostetriche. E inoltre anche la possibilità di somministrare il mifepristone fino alla nona settimana. In Italia, ricordiamo, sempre per una questione politica, si può somministrare e abortire col metodo farmacologico solo fino alla settima. Questa è una delle campagne appunto che sosteniamo e una delle tematiche nell'ambito della salute, delle tante complesse poi questioni di questa macro area della salute, di cui ci sarà anche modo di parlare domani all'assemblea pubblica. Per quanto riguarda Bologna, ci sono diverse realtà che stanno tenendo monitorata la situazione, offrendo sostegno a chi appunto si appresta a eseguire l'interruzione di gravidanza in questo periodo. E la Maleducation, il collettivo Maleducation ha effettuato un monitoraggio di consultori, ambulatori che erogano i servizi in questo periodo e si possono contattare per informazioni alla pagina Facebook Maleducation o all'indirizzo mail mala.consilia@gmail.com. E un altro collettivo che si sta occupando di monitoraggio e dove e come viene erogato questo fondamentale, ricordiamo, fondamentale servizio di interruzione volontaria di gravidanza sono le Mujeres Libres, che si occupano anche di sostenere e fornire supporto emotivo su richiesta nei modi e nelle modalità che la persona che deve fare questa interruzione preferisce, e si possono contattare anche loro per informazioni e sostegno alla pagina Mujeres Libres Bologna oppure via Zamboni Femminista @inventati.org e l'indirizzo mail. Grazie Alice per questo importante contributo sulla questione dell'aborto. Siamo assolutamente entusiasti di poterne parlare insieme domani a partire dalle 15:30 per finire poi l'assemblea tutta e tutto insieme sui nostri balconi, chi può nel giardino fuori, con pentole, padelle, tamburi, chitarre. Dobbiamo fare più rumore possibile perché non possiamo continuare a lasciare che un sistema eteropatriarcale gestisca la pandemia in modo da mettere le donne nelle condizioni di lasciare il proprio lavoro e di non poter accedere ai servizi e alla salute. Ricordiamo a tutte e tutto che stiamo cercando il più possibile di immaginare delle pratiche di lotta che tengano conto della responsabilità che tutte e tutto abbiamo in questo momento di grande fragilità della salute della comunità tutta, direi a livello transnazionale e globale. E noi ci siamo e vogliamo essere ancora tante, vogliamo essere sempre di più. E vi lasciamo con uno dei nostri pezzi preferiti, con Azealia Banks, e quindi ci vediamo tutte e tutto domani, e grazie per essere state in ascolto quest'oggi con noi. Ciao a tutti! Ciao. A domani! Get your camera, you perceiving that bitch shit for Tampa. End of the game, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weep in. I just wanna sip that punch with French. If you're treating, kick it with your bitch. You come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue, tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I'm the uptown, hey nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight. I'ma do one, two, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do one, two, fuck. Fuck them like you do one, two, come. You gated, get discovered, I'm a 2-1 deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose, ain't you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to 1-2. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were 2-1. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the 1-2 day, I'm the new Shifu, young Rapunzel.